Letture di Radio 24. Chissà se tra 10 anni qualcuno ricorderà ancora i tormentoni che abbiamo ascoltato quest'estate. Di certo, pochi hanno dimenticato cosa si ascoltava nell'estate di 10 anni fa. Sono innumerevoli i casi di canzoni scartate dalle selezioni per partecipare al Festival di Sanremo, o se scelte arrivate nelle ultime posizioni, che hanno sfondato nelle classifiche diventando dei tormentoni. Nel 2001, il caso di Tre parole, scritta e cantata da Valeria Rossi, la dice lunga. In realtà il pezzo non fu vergato solo dalla giovane e talentuosa cantautrice, nata a Tripoli ma cresciuta a Roma. Tre parole è stato il prodotto di un lavoro a 6 mani, poiché oltre alla Rossi se ne occuparono anche Liliana Richter e Francesco Cabras. Dunque, considerato non adatto dai selezionatori festivalieri, il brano fu pubblicato verso la metà di giugno del 2001 e solo nelle prime 3 settimane dall'uscita se ne vendettero subito 10.000 copie. Il testo, giocato sulla banalissima ma penetrante assonanza di sole, cuore e amore, entrò nei favori dell'Italia canzonettara, tanto che la sua permanenza al primo posto durò per 7 settimane consecutive. In totale il pezzo rimase in classifica dal giugno sino all'ottobre, risultando il secondo disco più venduto dell'anno. Certo, va scritto che raramente la semplicità dell'idea che porta alla scrittura di un testo ben si sposa con la linea melodica scelta per musicarlo. Qui però la filastrocca «Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare» era talmente facile da mandare a memoria, canticchiare o fischiettare sotto la doccia, da non lasciare spazio a dubbi. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. Le radio poi fecero il grosso del lavoro, perché proprio grazie all'FM la canzoncina raggiunse ogni anfratto della nostra penisola e scaldò i cuori di chi alla musica chiedeva leggerezza, spensieratezza, serenità. Con questo, che più tardi avremmo scoperto essere un one hit wonder, gli inglesi chiamano così le canzoni che danno un enorme successo al loro interprete, ma si rivelano l'unico hit della carriera dell'artista, Valeria Rossi partecipò al Festival Bar del 2001, vincendo a mani basse il premio come rivelazione dell'anno. Il bello è che, contrariamente a qualsiasi aspettativa, la canzone riuscì a superare i confini italiani ed ebbe un gran successo anche in Europa, arrivando ai primi posti delle classifiche di Belgio e Spagna. Titolo: Tres Palabras. Dopo un exploit così non poteva non uscire un album e il 19 ottobre fu dato alle stampe Ricordati dei fiori, presentato non a caso in un famoso vivaio di Milano addobbato a festa. I singoli che tentarono di ripetere il botto Tutto fa l'amore, Tutte le mattine e un remix della canzone Pensavo a te non riuscirono nemmeno a farsi notare nel mare magnum della musica italiana e, per la verità, a contrastarne la crescita ci si misero anche altre incognite. I giornalisti, che fin dall'inizio avevano biasimato il successo di una canzonetta stupida e insignificante, misero la croce addosso alla Rossi, che sotto il peso di una critica tranchant cadde senza mai riuscire a risollevarsi. In seconda battuta, anche la vena creativa di Valeria si asciugò e nel 2004, dopo un tentativo con lo sfortunato «Osservi l'aria», scelse di non esibirsi più in prima persona. Da anni ormai la ragazza ha abbandonato la musica, fa solo l'autrice e si è fatta notare per aver firmato un pezzo per Mietta intitolato Ai 20 anni e il racconto 8 giorni per la Coniglio Editore, contenuto nel libro Suicidi falliti per motivi ridicoli. Nel 2010 la Rossi ha partecipato come autrice al Festival di Sanremo, scrivendo il pezzo Dove non ci sono ore, interpretato dalla giovanissima Jessica Brando, che raggiunse la finale nella categoria Nuova Generazione. Purtroppo per Valeria Rossi, le tre parole che ne hanno segnato la carriera sono One Hit Wonder. Peccato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luca Dondoni, 50 anni di tormentoni, dalla Stampa del 29 agosto. Una bambola a vostra immagine e somiglianza, per la modica, si fa per dire cifra, di $1.700. È quanto offre una compagnia giapponese, la Clone Factory. Secondo l'azienda, grazie a una tecnica di fotografia futuristica, mappe facciali e stampanti tridimensionali, è possibile ricavare delle bambole con il volto del committente. Gli esempi, almeno a vedere il sito web, sono tantissimi. Dalla riproduzione in scala ridotta delle coppie matrimoniali a quella dei supereroi con il volto personalizzato. Il processo dura un po'. Il cliente viene fatto sedere in mezzo a una decina di macchine fotografiche, luci e rilevatori di superficie. Una volta effettuato lo scatto, il tutto viene elaborato sul PC e poi stampato in 3D. Il tempo di qualche rifinitura e il bambolotto è fatto e finito. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Così diventi davvero una bambola, dal Magazine 7 del 25 agosto. Letture di Radio 24. Lettera arriva a destinazione con 37 anni di ritardo. Non è il solito di servizio di Poste Italiane, ma un messaggio inviato con una bottiglia. Allora, la signora Schmidt era una ragazzina di 11 anni con un piccolo grande sogno, come è giusto che sia a quell'età. Una ragazzina che aveva affidato alla sua scrittura ordinata, ogni tanto abbellita da un fiorellino, il desiderio di saperlo, un giorno avverato. Il giorno di un'amicizia inattesa e sorprendente, alla quale chiedeva nient'altro che una cartolina, inviata da chissà chi e da chissà dove, al suo indirizzo di casa, vergato sempre con quella sua calligrafia a modo, maggiorata solo da un danke in maiuscoletto corposo, per dire un grazie sincero e garantire la sua riconoscenza futura, nella bella missiva che infine aveva imbustato e spedito. A modo suo. Allora la signora Schmidt, oggi madre felice di tre ragazzi di 26, 24 e 23 anni, era solo la piccola Susanne Greber che d'estate sgambettava ancora, assieme alla sorella Corinne, tra gli ombrelloni della Riviera Romagnola, prima di prendere il largo, come capita a un certo punto della vita. Quella era l'estate del 1974 e per Susanne non sarebbe stata neppure l'ultima passata tra i bagni di Marina Centro sul lungomare infinito di Rimini, visto che per altri tre anni la sua famiglia tornò puntuale a passare le ferie da quelle parti prima di cambiare rotta vacanziera, verso l'America e l'Africa, una volta cresciute le fanciulle. Ma fu in quell'estate del 74, il 26 luglio per l'esattezza, che il suo sogno in forma letteraria prese il largo a modo suo, imbustato in una bottiglia di Pepsi, appena svuotata, e spedito a chissà chi e chissà dove, dal sedile in legno di un moscone, mentre papà Voldemar remava, mamma Loti sorrideva e Corinne osservava incuriosita, come in una cartolina. Finché la cartolina che quel messaggio in bottiglia richiedeva speranzoso, «Lieber Finder, caro amico, che troverai questa bottiglia, potresti spedirmi una cartolina a questo indirizzo di Zurigo? A me farebbe piacere». Non è arrivata davvero. 37 anni dopo, quando l'amicizia si può chiedere a chiunque in capo al mondo e in un nanosecondo, solo schiacciando un tasto su Facebook, senza più il fascino e il mistero di un messaggio affidato agli anni e alle onde del destino. A trovare la bottiglia, giusto un anno fa, sempre a Rimini, sotto 2 metri di sabbia dove una forte mareggiata doveva averla sepolta fin da allora, una famiglia toscana, padre e figli, che s'erano intestarditi a scavare una buca profonda 2 metri fino a scovare quel vetro smerigliato dal tempo. C'è voluto un po' a rintracciare Susanne Greber, oggi signora Schmidt, ma alla fine il desiderio di quella bambina, come da messaggio, è tornato a destinazione. E quest'estate pure lei, di nuovo vacanziera riminese, perché il senso di questa storia agostana non sta tanto nel formidabile ritrovamento che fa il paio con quello di Daniil Korotkik, un ragazzino russo che in aprile ha recuperato il messaggio in bottiglia lanciato nel 1987 da Frank Uesbeck, un bambino tedesco di 5 anni, allora, e con quello scovato dall'inglese Lorraine Yates su una spiaggia del Dorset, abbandonato sotto vetro nel 77 dal 12enne belga Olivier Van de Valle, che navigava da quelle parti, quanto nel ritorno a Rimini di Susanne Greber Schmidt, con marito e cagnolino al seguito. Ospite nell'albergo Dantan, oggi gestito dai figli del titolare di allora, e che le hanno fatto trovare una grande torta di festeggiamento con, nascosta all'interno, una bottiglia e il suo relativo messaggio. Bentornata Suzanne, dopo 37 anni. E giù ricordi, aneddoti, un sorso del passato, al gusto d'infanzia, da gustare con affetto. Ecco, il senso di avventure come queste, che trovano un finale senza data di scadenza, fatto di incontri reali ed emozioni vere, sta lì a rammentarci, spesso prigionieri di rapporti digitali, emotivamente e linguisticamente banali, amicizie e incontri come ordini di vendita ed acquisto, un tasto battente e iperveloce a sintetizzare la propria videata sul mondo, come il tempo ritrovato e le persone e i momenti perduti di vista con pigrizia e indolenza, lontananza e incoerenza, perfino per dimenticanza di sé, siano gli unici paletti ai quali ancorare sogni vecchi e nuovi, in una stagione che fa volare via il futuro, svuotato di fiducia e di mezzi. Il ritorno della signora Schmidt sulla spiaggia che la vide bambina, grazie a un gesto romantico e gonfio di quella fiducia che solo i bambini, i Frank, gli Olivier, le Suzanne di questa storia sanno dare e avere, come un messaggio da infilare in questa tesa estate italiana, dove il vuoto, magari, fosse quello di una bottiglia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Cesare Fiumi, Quel messaggio in bottiglia di 37 anni fa, dal Magazine 7 del 25 agosto. Abrogato da un referendum nel 1993, il finanziamento pubblico ai partiti continua ad esistere e nessuna politica di tagli riesce mai a scalfirlo. C'è un innominabile tabù tra i costi della politica che nessuno osa toccare. Sono i soldi versati dallo Stato ai partiti, ironicamente denominati rimborsi spese elettorali. Nella fiera delle spese politiche da tagliare, parlamentari, province, comuni, vitalizi, eccetera, mai è stato indicato il finanziamento ai partiti, che non solo è una spesa consistente, ma rappresenta anche un fattore distorcente il gioco democratico. Il finanziamento pubblico ai partiti, introdotto nel 1974 per interrompere l'illegalità, è stato abrogato dal referendum del 1993, ma da allora diverse nuove leggi sui sedicenti rimborsi elettorali, approvate tutte all'unanimità nell'ombra delle commissioni parlamentari, su impulso soprattutto dei tesorieri del PDS, PD e della Lega, hanno dilatato quegli stessi contributi che erano stati nominalmente abrogati. Ogni elettore, che in origine versava obbligatoriamente ai partiti circa 0,5 euro al valore attuale, oggi ne versa circa 3,6, che salgono almeno a 5 se si prendono in considerazione analoghe voci come l'editoria politica, i gruppi parlamentari e il fondo per i debiti dei partiti. Nel 2010 i partiti hanno ricevuto solo di rimborsi elettorali 182.144.222,1 euro, mentre la prevista riduzione del 10% è stata rinviata al futuro. Tali ingenti somme di denaro inquinano la democrazia per diverse ragioni. Perché le burocrazie centrali che le ricevono possono esercitare un grande potere sui propri partiti, perché favoriscono la frammentazione e perché discriminano chi è fuori rispetto a chi è dentro. Si afferma che la democrazia costa, è vero, ma il punto è il modo in cui la collettività deve farvi fronte e in quale misura, dato che il costo dei partiti in Italia è superiore agli standard degli altri paesi europei. Un finanziamento più equo per i cittadini e meno inquinante per la politica potrebbe essere quello erogato, entro determinate soglie, direttamente dagli elettori ai candidati e ai partiti prescelti, grazie all'incentivo della defiscalizzazione, secondo sistemi analoghi in vigore in altri stati europei. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Massimo Teodori, Finanziamento pubblico dei partiti, il tabù che nessuno osa infrangere, dal Corriere della Sera del 30 agosto. Secondo uno studio inglese, la maggior parte delle persone, soprattutto tra i 45 e i 54 anni, comincia così di cattivo umore la settimana da non riuscire a fare un sorriso prima delle 11:16 del lunedì. La metà arriva in ritardo al lavoro. Molti sono produttivi per sole 3 ore e mezzo e si lamentano almeno per 12 minuti. Tra le cure, lo shopping online, la TV, mangiare cioccolato o progettare vacanze. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il lunedì nero in ufficio, da Vanity Fair del 17 agosto. È uguale a tutti gli altri. Si accende allo stesso modo, ci si lavora con gli stessi comandi. L'unica cosa che cambia è il rivestimento. Il simbolo, la mela morsicata, è in oro 24 carati e con 53 diamanti incastonati tutti intorno. Mentre la cornice frontale è fatta con decine di pezzetti d'ossa di tirannosauro, tutte caratteristiche che ne fanno l'iPad più costoso al mondo. Il prezzo? 8 milioni di dollari. A mettere in vendita l'oggetto della casa di Cupertino è un sito che commercializza prodotti esclusivi e costosissimi, curato da Stuart Hughes. Nella descrizione viene specificato che le ossa di dinosauro risalgono a 65 milioni di anni fa e che il resto del rivestimento è fatto con la pietra più antica del mondo, estratta in Canada e vecchia di 75 milioni di anni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo L'iPad da 8 milioni di dollari, dal Magazine 7 del 25 agosto.